due parole di presentazione di opera tua, di che cos'è questo progetto di Coppa Alleanza che raggiunge col 2021 la sua quinta edizione. La cooperativa da anni è impegnata in un programma più generale che abbiamo chiamato per tutti per te Coop, che prevede che l'acquisto delle linee del prodotto a marchio confluisca per l'1% in un fondo che la cooperativa mette poi a disposizione a diversi ambiti sociali e culturali in cui la cooperativa è impegnata a favore delle comunità in cui è presente. L'1% delle vendite del prodotto Coop è destinato proprio a alimentare i progetti di carattere culturale. Tra questi c'è questa importante iniziativa che vi presentiamo oggi e che ricordavo è giunta la sua quinta edizione, che è Opera Tua, che ha l'obiettivo di recuperare le opere d'arte del territorio in cui è presente la cooperativa. Siamo alla quinta edizione, ne abbiamo quindi svolte fino ad oggi dal 2017 4. I risultati sono significativi perché siamo riusciti a recuperare ben 32 opere d'arte e nel nostro sito, che vi invito a visitare, c'è tutta la storia e la narrazione che racconta di come ci siamo presi cura e dei vari passaggi di restauro. Ma è importante però ricordare che è un progetto estremamente partecipato, perché non è solo dare una risposta concreto operativo al recupero delle opere d'arte, ma anche mettere in connessione le nostre comunità con il patrimonio artistico e culturale in cui vivono. Lo facciamo prima di tutto attraverso i nostri soci, ma coinvolgendo in termini generali tutti i cittadini, perché tutti possono concorrere a votare, quindi scegliere, conoscere, documentarsi e operare anche una scelta di gradimento che indica attraverso questo piccolo gioco e piccola competizione in cui mettiamo a confronto delle opere d'arte, ma che si porta dietro un grande valore che è quello della conoscenza. Tutto questo non lo facciamo da soli, abbiamo coinvolto dei partner in questa iniziativa, assieme a Fondacom, che è il partner tecnico che ci accompagna in questa attività ormai dalla sua ideazione. Abbiamo due importanti soggetti e partner che ci hanno coadiuvato in questi anni. Uno è il Touring Club Italiano, l'altro è l'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale.